Europa 24. L'avete sentito anche poco fa, in effetto giorno festeggiano i mercati dopo che la Banca Centrale Europea ha tagliato a sorpresa il tasso principale di rifinanziamento al minimo storico dello 0%. Tagliati i tassi sui depositi bancari a meno 0,40%. Il tasso sui prestiti marginali scende allo 0,25%. La BCE porta da 60 ad 80 miliardi al mese l'acquisto di bond attraverso il quantitative easing, che oggi compie un anno. Compie un anno il quantitative easing, lo stimolo dell'allentamento quantitativo a suon di acquisti di titoli di Stato dei paesi dell'Eurozona, si appresta in queste ore ad essere rivisto. I mercati attendono. Da una parte c'è il rischio che oggi la BCE deluda le attese esuberanti degli investitori, dall'altra fra gli addetti ai lavori c'è chi invita a non sottovalutare Mario Draghi. Il primo anno di quantitative easing è un appuntamento chiave, una terza prova di fiducia nella BCE, unica istituzione europea con piena autonomia e leadership. Una scelta, quella dell'allentamento quantitativo, che a detta di molti esperti salvò l'Europa dai debiti nazionali e raffreddò la febbre degli spread. Così la vedono molti operatori, dopo che a dicembre la risposta, giudicata deludente, della BCE aveva depresso le borse e fatto alzare l'euro. Rispetto a tre mesi fa, però, le cose sono cambiate. Si parla sempre più di rischio credibilità per la capacità delle banche centrali di incidere sull'economia. L'inflazione, poi, dell'Eurozona è ripiombata sotto zero e fra gli investitori ci si aspetta che gli acquisti di debito con il quantitative easing vengano aumentati a 75 miliardi di euro al mese dai 60 attuali. E non si escludono anche altre mosse, ad esempio un'estensione del quantitative easing ad altre categorie di titoli oltre al debito pubblico, come i bond bancari o delle aziende. E si ipotizza persino la cartolarizzazione di prestiti più rischiosi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fino a questo momento non abbiamo evidenza di questo flusso enorme di migranti in arrivo sulla rotta adriatica. A parlare così il ministro Angelino Alfano al suo arrivo al Consiglio Affari Interni dell'Unione Europea. Siamo abituati a fare le previsioni, ma anche ad osservare la realtà, spiega Alfano. La logica ci suggerisce che con la chiusura della rotta balcanica si potrebbe aprire una rotta verso l'Italia. Questo però ce lo fa dire la logica, ma oggi non i fatti. La plenaria di Strasburgo ha dato l'ok finale al pacchetto di aiuti d'urgenza alla Tunisia, che comprende il regolamento che permette l'importazione senza danni di 35.000 tonnellate aggiuntive di olio d'oliva senza dazi nell'Unione Europea. Il voto era stato sospeso il 25 febbraio. Ieri il Coreper ha recepito gli emendamenti tecnici e comunicato che avrebbe adottato il testo che sarebbe passato oggi al Parlamento Europeo. L'Aula ha approvato con 500 sì, 107 no, 42 astenuti. Il commento di Sebastiano Barisoni. Insorgono le opposizioni italiane, Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega, su tutte, accusando il governo di non avere saputo difendere gli interessi del nostro paese. Ma non è contento nemmeno il partito di maggioranza, che pure ha ottenuto, va detto, grazie alla posizione italiana, qualche miglioria. Non saranno più ripetibili queste importazioni straordinarie e soprattutto c'è l'obbligo di tracciabilità. Ma la domanda di fondo resta: intanto la fretta inusuale della Commissione europea, ma soprattutto perché, visto che questo accordo risponde alle esigenze, alla promessa di aiutare il governo tunisino dopo gli attentati del Bardo nella sua lotta contro l'ISIS, aiutandolo anche economicamente, perché, dicevamo, non si è scelta un'altra strada, un aiuto diretto alle imprese tunisine? Agevolando infatti un'extra quota di importazioni di olio tunisino si darà sì una mano agli agricoltori di quel paese, ma si aiutano soprattutto le imprese, e dispiace ricordare, spagnole ma anche italiane, che potranno trasformare il loro olio in italiano o spagnolo senza nemmeno pagare i dazi. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.